Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Lucy, Lucy, chiamavano le voci dalla carrozza. Potrebbe aiutarmi, signor Bibb? Domandò il signor Emerson. L'interpellato apparve sbalordito dalla richiesta e rispose con voce bassa, austera. Sono più afflitto di quanto saprei esprimere. È deplorevole, deplorevole, incredibile. Cos'ha da ridire sul ragazzo? Sbottò di nuovo il vecchio. Niente, signor Emerson, salvo che non mi interessa più. Sposi George, signorina Honeychurch, farà egregiamente al caso suo. Il reverendo si avviò verso la porta e li lasciò soli. Lo sentirono che aiutava sua madre a salire le scale. «Lucy!» chiamavano le voci. Lucy si rivolse al signor Emerson per disperazione, ma la sua faccia la ravvivò. Era la faccia di un santo che comprendeva. «Adesso tutto è buio. Adesso sembra che bellezza e passione non siano mai esistite, lo so. Ma si rammenti delle colline sopra Firenze e della vista. Ah, cara, se io fossi George e se le dessi un solo bacio!» Questo la renderebbe audace. Lei deve entrare col gelo nelle ossa in una battaglia che esige calore. Deve inoltrarsi nella confusione di idee che ha suscitato lei stessa, e sua madre e i suoi amici la disprezzeranno, mia diletta. E ha buon diritto, posto che si abbia mai il diritto di disprezzare. George è ancora nel buio, e lei sosterrà tutte le liti e tutte le sofferenze senza una parola di lui. Sono giustificato io? Anche nei suoi occhi spuntarono le lacrime. Sì, perché noi non combattiamo soltanto per l'amore o il piacere, ma per ben altro. C'è la verità. È la verità che conta. Mi baci lei, disse la ragazza. Mi baci lei. Proverò. Quel vecchio le diede un senso di divinità riconciliate, l'impressione che nell'ottenere l'uomo che amava, avrebbe ottenuto qualcosa per il mondo intero. Durante lo squallore della corsa in carrozza verso casa, già che parlò immediatamente, rimase il saluto di lui. Egli aveva estirpato al corpo il suo stigma, ai sarcasmi del mondo, i loro aculei. Le aveva mostrato la santità del desiderio schietto. Lucy non capì mai esattamente, avrebbe detto negli anni successivi, come fosse riuscito a darle forza. Sembrava che le avesse fatto vedere in un attimo l'insieme di tutte le cose. Le signorine Alan andarono davvero in Grecia, ma ci andarono per conto proprio. Loro due sole del nostro gruppetto doppieranno il promontorio di Malea e solcheranno le acque del Golfo di Egina. Loro due sole visiteranno Atene e Delfi, e entrambi i santuari del canto intellettuale, quello sull'Acropoli, circondato da mari turchini, e quello sotto il Parnaso, dove nidificano le aquile e l'auriga di bronzo guida impavido il suo cocchio verso l'infinito. Tremanti, ansiose, ingombre di molto pane digestivo, le viaggiatrici proseguirono fino a Costantinopoli e girarono intorno al mondo. Quanto a noi altri! Dobbiamo accontentarci di una meta amena, anche se meno ardua. Torniamo alla pensione Bertolini. George disse che la loro camera era stata la sua. No, che non era la tua, affermò Lucy, perché è la camera che avevo io e io occupavo quella di tuo padre. Fu Charlotte ad assegnarmela per qualche suo motivo. George si inginocchiò sull'impiantito e le mise la faccia in grembo. Alzati, George, sei proprio un bambino. Perché non dovrei essere un bambino? Incapace di rispondere alla domanda, Lucy posò sul tavolo il calzino che stava tentando di rammendare e rivolse lo sguardo alla finestra. Calava il crepuscolo ed era tornata la primavera. «Ah, che piaga quella Charlotte!» disse pensosamente. «Di che mai saranno fatte le persone come lei?» «Della stessa stoffa di cui sono fatti i preti. Che stupidaggine!» «Esatto, di stupidaggine!» Il pavimento è freddo, alzati se non vuoi pigliarti i reumatismi e smettila di ridere e di comportarti da sciocco. Perché non dovrei ridere? Chiese George, immobilizzandola con i gomiti e accostando la faccia alla sua. C'è forse bisogno di piangere. Baciami qui. E indicò il punto dove un bacio sarebbe stato gradito. Era un ragazzo, in fondo. Tirate le somme, Era lei che ricordava il passato, lei nella cui anima era affondato il ferro, lei che sapeva chi aveva occupato quella camera l'anno prima. Scoprirlo ogni tanto in errore glielo rendeva stranamente più caro. «Ci sono lettere?» domandò George. «Poche righe di Freddy. Adesso baciami qui. E poi qui». Alla fine, sotto la rinnovata minaccia dei reumatismi, George si alzò a malincuore e si diresse verso la finestra. La aprì, come è abitudine degli inglesi, e si affacciò al davanzale. Ecco la spalletta, ecco il fiume, ecco laggiù a sinistra le prime pendici delle colline. Il fiaccheraio, che subito lo salutò col sibilo di un serpente, avrebbe ben potuto essere lo stesso fetonte che 12 mesi addietro aveva dato l'avvio a quella felicità. In uno slancio di gratitudine appassionata, tutti i sentimenti traboccano in passioni nel sud. Il marito benedisse cose e persone che si erano date tanta pena per un giovane stolto. Lui si era aiutato anche da sé, è vero, ma come ottusamente. Tutta la lotta essenziale era stata sostenuta da altri, dall'Italia, da suo padre, da sua moglie. Lucy, vieni a vedere i cipressi. E la chiesa, chissà come si chiama, risalta ancora lassù. San Miniato. Aspetta un minuto che finisco di ramendarti il calzino. Signorino, domani faremo un giro, gridò il fiaccheraio con suadente certezza. George gli disse che si sbagliava. Loro non avevano soldi da buttare via in scarrozzate. E tutta la gente che aveva aiutato a propria insaputa? Le signorine Alan, i Cecil, le signorine Bartlett. Sempre propenso ad esaltare il fato, George elencò le forze che lo avevano travolto nella presente Letizia. «C'è niente di bello nella lettera di Freddy?» «No, non ancora», disse Lucy. La Letizia di lui era assoluta, ma in quella di lei c'era dell'amarezza. Gli Honeychurch non avevano perdonato. Erano disgustati dalla sua passata ipocrisia. Si era alienata a Windy Corner, forse per sempre. «Cosa ti dice?» «Sciocco ragazzo, crede di fare il dignitoso». Sapeva che avremmo tagliato la corda in primavera, lo sapeva da 6 mesi, e che se la mamma ci negava il suo consenso, avremmo risolto la faccenda per conto nostro. Erano stati avvertiti lealmente e ora la chiama fuga con lo spasimante, che ragazzo ridicolo. «Signorino, domani faremo un giro», fece il vetturino da fuori. «Ma alla fine le cose si aggiusteranno. Freddy deve ricostruirci tutti e due di sana pianta. Mi dispiace però che Cecil sia diventato così cinico riguardo alle donne». È la seconda volta che cambia radicalmente. Perché gli uomini si ostinano ad avere delle teorie sulle donne? Io non ne ho nessuna sugli uomini. Mi dispiace inoltre che il signor Bibb... Vacci piano con questo dispiacere. Non ci perdonerà mai. Ossia, non gli interesseremo mai più. Mi dispiace che lui abbia tanto influenzato i miei a Windy Corner. Mi dispiace che lui... Ma se agiremo conformemente alla verità... Le persone che ci vogliono bene sul serio ritorneranno a noi di sicuro con l'andar del tempo. Forse. Poi George disse in tono più tenero. Beh, io ho agito conformemente alla verità. È la sola cosa che ho fatto. E sei ritornata a me. Dunque è possibile che tu abbia ragione. Si avvicinò di nuovo a sua moglie. Quel calzino vada a farsi friggere. La sollevò di peso e la portò alla finestra perché ammirasse anche lei tutta la vista. Caddero in ginocchio invisibili dalla strada, speravano, e ognuno di due sussurrò più volte il nome dell'altro. Ah, valeva la pena. Era la grande gioia che avevano atteso, oltre a innumerevoli piccole gioie, di cui non si erano mai sognati. Tacquero. «Signorino, domani faremo...» «Alla malora quell'uomo!» Lucy si ricordò del venditore di fotografie e disse «No, non maltrattarlo». Rimase un attimo col fiato sospeso, poi mormorò «Il signor Eager e Charlotte, la spaventosa, gelida Charlotte. Quanto sarebbe crudele con un uomo come questo. Guarda, le luci che passano sul ponte. Ma la nostra camera mi rammenta Charlotte. Che cosa orribile invecchiare com'è invecchiata Charlotte. Pensa se quella sera al rettorato avesse saputo che in casa c'era tuo padre». Mi avrebbe impedito di entrarci e lui era la sola persona al mondo capace di farmi intendere ragione. A te non sarebbe riuscito. Quando sono molto felice, Lucy baciò suo marito, ricordo come tutto sia dipeso da una piccolezza. Se appena lo avesse saputo, Charlotte mi avrebbe sbarrato il passo e così sarei partita per la stupida Grecia e cambiata senza rimedio. Ma tua cugina lo sapeva, obiettò George. Vide mio padre, questo è certo. Me lo disse lui. No, che non lo vide. Non ricordi che Charlotte era di sopra con la madre del signor Bibb e che dopo andò direttamente in chiesa? Me lo disse lei. George si impuntò. Mio padre la vide e io mi fido più della sua parola. Si era assopito nello studio accanto al fuoco e a un certo punto aprì gli occhi e si trovò davanti la signorina Bartlett. Questo successe pochi minuti prima che tu arrivassi. Quando lui si svegliò, lei si stava girando per andarsene. Non si parlarono. Poi passarono ad altri argomenti, ai discorsi saltuari di coloro che hanno lottato per raggiungersi e il cui compenso è un tranquillo riposo fra le braccia l'uno dell'altra. Molto tempo trascorse prima che ritornassero la signorina Bartlett, ma quando lo fecero, la sua condotta apparve più interessante. George, insofferente di ogni oscurità, disse: «È chiaro che lei lo sapeva, ma allora perché corse il rischio di farvi incontrare? Sapeva che c'era mio padre, eppure andò in chiesa». Tentarono di ricostruire la vicenda. Mentre parlavano, alla mente di Lucy si affacciò una soluzione incredibile. La respinse e disse: «Com'è tipico di Charlotte, disfare il proprio lavoro all'ultimo momento combinando un imbroglio meschino». Ma qualcosa, nella sera morente, nel ruggito del fiume, nel loro abbraccio medesimo, li avvertì che le sue parole non toccavano il punto vitale e Giorgio bisbigliò: «O se invece lo avesse fatto apposta?» «Apposta? Che cosa? Signorino, domani faremo un giro!» Lucy si sporse dal davanzale e disse dolcemente: «Lascia, prego, lascia! Siamo sposati!» «Scusi tanto, signora!» rispose l'uomo con accento non meno dolce del suo e frustò il cavallo. «Buonasera e... grazie!» «Niente!» Il fiaccheraio partì cantando. «Se avesse fatto apposta, che cosa, George?» George sussurrò: «Che sia questo? È mai possibile? Voglio esporti una teoria sbalorditiva. Che tua cugina abbia sempre sperato, che fin dal primo istante del nostro incontro abbia sperato, nell'intimo del suo pensiero, che noi finissimo così, proprio nell'intimo, naturalmente, che ci abbia combattuti alla superficie pur continuando a sperare al tempo stesso. Non saprei spiegarmela in nessun altro modo. E tu? Guarda come mi ha mantenuto vivo dentro di te per tutta l'estate, senza lasciarti un momento di pace. Com'è diventata sempre più eccentrica e infida di mese in mese. La vista di noi due l'assillava, altrimenti non avrebbe potuto descriverci con tanta esattezza alla sua amica. Ci sono dei particolari che saltano agli occhi. Lessi il libro in seguito. Lucy non è una donna gelida, questa. Non è completamente inaridita. Ci ha strappati due volte l'uno all'altra. Ma quella sera al rettorato le si offrì una nuova occasione di darci la felicità. Non potremo mai esserle amici o ringraziarla, ma sono convinto che in fondo al cuore, molto più in fondo della parola e del comportamento, è soddisfatta». «Impossibile», mormorò Lucy. E poi, memore dell'esperienza del proprio cuore, disse: «No, è appena possibile». La giovinezza li avviluppò. Il canto di Fetonte annunziava la passione corrisposta, l'amore raggiunto. Ma avevano coscienza di un amore più misterioso di questo. Il canto morì in lontananza. Ascoltarono il fiume che trascinava le nevi dell'inverno fino al Mediterraneo. Buongiorno, sono Sandra Petrignani e riflettiamo insieme su l'ascolto di Camera con Vista che si è concluso oggi. Ecco, abbiamo conosciuto questo gruppetto di inglesi che porta in Italia la pensione Bertolini di Firenze, un insieme di regole e comportamenti sociali da Foster considerati medioevali, e abbiamo visto come nel dipanarsi della storia il medioevo venga poi superato da una visione del mondo in cui i sentimenti si prendono il loro spazio. Le ragioni del cuore contro quelle dell'intelletto, natura contro civiltà, autenticità contro convenzione. Ecco, è questo il centro che muove Camera con Vista, come tanti altri romanzi di Morgan Foster. A questo proposito, forse esagerando un po', il suo biografo ufficiale, P.N. Furbank, sosteneva che Foster era appunto uno di quegli scrittori che hanno un'unica storia da raccontare, la replicano in ogni libro variando i personaggi e la trama in una differenza solo di superficie. Non so se questa teoria possa esaurire la complessità di un capolavoro come Passaggio in India o il romanzo omosessuale Maurice, ma certamente è la cifra più clamorosa, più evidente della scrittura di Forster. O forse più semplicemente ogni grande scrittore non fa che replicare certi suoi problemi profondi in tutta l'opera che compone. Naturalmente Forster, in questa sua campagna contro le classi sociali, contro l'ipocrisia borghese, a favore dell'arte, dell'indipendenza di giudizio e della libertà sessuale, era anche fortemente influenzato dal suo ambiente, che era quello stravagante, innovativo della società dei cosiddetti apostoli. Gli apostoli erano una consorteria della migliore intelligenza dell'Università di Cambridge, nata come gruppo di conversazione esclusivamente maschile. Ne facevano parte, per esempio, i fratelli di Virginia Woolf, i suoi migliori amici, quelli che poi sarebbero confluiti nel gruppo di Bloomsbury, il gruppo che invece era aperto alle donne e dove Forster sicuramente imparò e apprezzò quel femminismo di cui poi i suoi libri sarebbero stati pervasi. Ecco, e Camera con vista ne è un esempio chiarissimo, non solo nell'evoluzione della protagonista, Lucy Honeychurch, ma anche, se non soprattutto, nel personaggio più misterioso, quello di Charlotte Bartlett, che rappresenta la deriva negativa di una liberazione femminile irrisolta e però abbastanza generosa da mettere la più giovane amica sulla strada giusta. In aspetti del romanzo, il prezioso saggio che Forster dedicò alle questioni letterarie sostiene che in ogni romanzo ci sono personaggi tondi e personaggi piatti. Questi personaggi piatti sono mere funzioni del racconto. Naturalmente sia Lucy che Miss Bartlett non sono piatte per niente, anzi sono generosamente umane, reali, carnali, proprio perché molto umorali e sempre in conflitto con se stesse. Dicevamo dell'amicizia fra Forster e Bloomsbury, fra Forster e in particolare Virginia Woolf, un'amicizia che fu privata e letteraria allo stesso tempo. Naturalmente si muovevano sullo stesso terreno, si ponevano gli stessi interrogativi sul futuro del romanzo e sulla società e davano risposte in parte identiche. Per esempio non amavano l'esasperato sperimentalismo di James Joyce, riconoscevano un maestro in Henry James e spesso scrivevano l'uno sui libri dell'altro. È proprio, ecco, con Virginia Woolf che vorrei concludere a questo punto, quando, pur analizzando l'estrema perizia di Forster rispetto agli ambienti che descrive, persino rispetto agli oggetti, singoli oggetti e certi gesti significativi dei singoli personaggi, lei, Virginia, scrive a proposito di Forster, c'è qualcosa di sconcertante ed elusivo nella natura stessa del suo talento. Ecco, così direi che il tempo non ha cancellato questo aspetto del talento fosteriano e che, rileggendolo oggi, percepiamo lo stesso brivido, la stessa piacevole sorpresa, quella elusività che ci sconcerta, che ci dà la sensazione di perdere qualcosa, di non capire tutto e che è la ricchezza dell'inespresso, il motore segreto delle storie. Quello che rende sempre attuali i libri scritti in altri periodi storici, perché parlano della vita nascosta dei personaggi, quella che resta sempre valida e che è relativa alla più profonda natura umana. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, postfazione di Sandra Petrignani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.